Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Per rendere il fotovoltaico ancora più competitivo ci sono in buona sostanza due strade percorribili: abbattere i costi delle tecnologie già in commercio o sviluppare nuove celle che a parità di costi siano più efficienti. Nuove celle fotovoltaiche ad altissima efficienza servono soprattutto per sviluppare il cosiddetto fotovoltaico a concentrazione. Questi sistemi inseguono il moto del sole nel cielo raccogliendone la luce con specchi o lenti per poi concentrarla su celle fotovoltaiche molto piccole e appunto molto performanti. Si arriva, come si dice in gergo, a centinaia di soli, fino anche al migliaio. Questi sistemi, più complessi e costosi ma molto più efficienti dei tradizionali pannelli fotovoltaici, costituiscono ancora oggi solo una parte infinitesimale del mercato, anche per via della rapidissima discesa dei prezzi del fotovoltaico tradizionale. Ma si ritiene comunque che siano il futuro, soprattutto nelle aree del mondo in cui il sole picchia più forte e le nuvole scarseggiano. I sistemi a concentrazione sono praticamente inutili con la luce diffusa. Per migliorare la resa degli impianti fotovoltaici a concentrazione si lavora sulle parti ottiche, specchi o lenti, sul meccanismo di inseguimento del sole e su tutta una serie di altri dettagli. Ma gran parte della ricerca punta a rendere più efficiente il cuore del sistema, la cella fotovoltaica. E dall'Australia, e più precisamente dall'Università di New South Wales, è giunta notizia di un modo nuovo e decisamente originale di affrontare questa sfida. Ma prima vediamo di capire qual è il problema di fondo e come viene affrontato tradizionalmente. Ve lo spieghiamo con una breve scheda dal taglio, diciamo così, un po' gastronomico. Sentite. Un pannello FV è come un tramezzino che, a seconda del tipo di farcitura, riesce a catturare bene le radiazioni luminose di certe tonalità, ma meno bene le altre. La strada oggi più seguita per aumentare l'efficienza delle celle FV consiste quindi nel sovrapporre nuovi strati, con tante farciture diverse, ognuna delle quali specializzata per una gamma di colori differente, cercando di coprire al meglio tutto lo spettro. Si parla in questi casi di celle multigiunzione. Oggi in commercio ci sono vari tipi di celle fotovoltaiche a tripla giunzione e in laboratorio si sperimentano celle a 5 giunzioni di ogni tipo, con rendimenti che superano il 45% contro il 20% o poco più delle celle fotovoltaiche tradizionali. Naturalmente, costi e complessità di queste architetture multistrato sono nettamente superiori e non sempre i benefici sono corrispondenti. Accanto a questo filone di ricerca si tentano poi altre vie per rendere più efficienti i sistemi fotovoltaici. Oltre a quello di cui abbiamo già parlato, una serie di altri fenomeni fisici, alcuni ben compresi, altri meno, limitano infatti sia il rendimento teorico che quello pratico delle celle fotovoltaiche. Ci sono ricerche che promettono di risolvere alla radice questi problemi, ma la maggior parte di queste sembra lontana da un'applicazione pratica. Ecco perché assume rilevanza la notizia che arriva dal gruppo di ricerca guidato da Martin Green, già noto per vari record tra gli addetti ai lavori, il quale ha sviluppato una soluzione originale che in un certo senso aggira il problema applicando il ben noto principio del divide et impera. Sentiamo. Invece di cercare di creare una cella super efficiente, i ricercatori dell'Università di New South Wales hanno messo a punto un particolare elemento ottico. Questo oggetto, in gergo si parla di filtro dicroico, è una via di mezzo tra uno specchio e un filtro colorato. Più precisamente, un filtro dicroico è trasparente ad alcune lunghezze d'onda della luce, dalle quali si lascia attraversare, mentre riflette le altre. Applicando uno di questi speciali filtri, i ricercatori australiani hanno fatto in modo di dividere la luce del sole in due fasci luminosi, con caratteristiche cromatiche diverse, per poi inviarli a due celle fotovoltaiche differenti. In questo modo, ogni cella può essere esposta alla gamma cromatica a lei più confacente, rendendo l'insieme molto più performante di quanto non siano le singole celle, tanto da raggiungere il rendimento record del 40,4%. Perché questo risultato è così eclatante? Perché i record del 45% e oltre di cui abbiamo sentito sono stati ottenuti con celle fotovoltaiche sperimentali, non di tipo industriale, e soprattutto in laboratorio. Le stesse celle messe alla prova sul campo finiscono per non superare il 36-37% di rendimento, mentre la tecnologia australiana supera il 40% di efficienza in applicazioni reali sul campo e dovrebbe essere in grado di raggiungere rapidamente solidamente il 42%. L'altro aspetto rilevante è che si avvale di tecnologie già esistenti. Le due celle fotovoltaiche utilizzate per queste prove sono di tipo commerciale, una tradizionale addirittura, l'altra multigiunzione. Ma forse l'aspetto più importante è che si apre una via nuova e per ora quasi inesplorata per rendere ancora più competitivo il fotovoltaico del futuro. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a lunedì sera.